premio letterario per giovani scrittori e scrittrici, per cui se conoscete qualcuno che ha un romanzo, un racconto nel cassetto e soprattutto è in una fascia d'età tra i 18 e i 39 anni, la Sederai di Bolzano sta cercando dei manoscritti per poi destinarli a una eventuale pubblicazione. Quindi cerchiamo, ecco, di diffondere questa notizia e vi chiediamo una collaborazione, visto che anche la biblioteca poi raccoglie spesso manoscritti, racconti e anche la memorialistica. Vi ringrazio ancora, vi saluto anche da parte dell'assessore Tomasini e vi auguro una buona serata. Grazie. Saluto anch'io tutto questo pubblico molto, insomma, interessato e competente, quindi cercherò di parlare il meno possibile e di lasciare parlare dopo la dottoressa Esposito, che saluto. Io sono qua in che veste, in fondo? Sei in veste di moderatore oggi, non ti ho avuto più. No, insomma, a parte che di amico della biblioteca, però mi sento anche coinvolto, certo, dall'argomento, intanto perché in quanto giornalista e quindi oggetto degli studi. Allora, guarda, scusa, devo scusarmi, ma Paolo Valente è stato direttore per tanti anni del settimanale diocesano Il Segno. Sì, quindi sì. No, ma questo lo dico per questo che quando c'è stata l'occasione di che abbiamo visto che era stato pubblicato questo libro, di coinvolgerlo. Infatti. Poi la circostanza è capitata una settimana dove arriverà in biblioteca. Ok, no, quindi nel senso che io mi sento un po' a disagio perché sono doppiamente oggetto delle ricerche della dottoressa Esposito, quindi mi sento un po' osservato. In ogni caso in altra epoca. Sì, sì. Per fortuna che siamo contemporanei e quindi va bene. Detto questo, io ho letto molto volentieri, proprio per questo motivo e anche per, diciamo, il mio interesse della storia di questa provincia, questo libro Stampa Cattolica in Alto Adige tra fascismo e nazismo, uscito l'anno scorso se non sbaglio. Sì, alla fine dell'anno scorso. La casa editrice Vogelweider a Tesia e il ruolo del canonico Gamper 1933-1939. Noi tutti qui, penso, sappiamo che sì, parliamo di storia, ma parliamo anche di attualità, soprattutto se parliamo di casa editrice Atesia, non è una cosa passata, è una cosa del presente e probabilmente anche del futuro, e anche con dinamiche e legami, diciamo, non certo col fascismo e col nazismo, ma per esempio con l'area, col mondo cattolico, con la diocesi, eccetera. Ancora oggi esistono queste compartecipazioni e condivisioni di responsabilità, no? Quindi c'è una continuità notevole nella nostra storia altoatesina anche a questi livelli. Quindi, come dicevo, l'ho letto molto volentieri e vorrei sottolineare in particolare due aspetti che suscitano il mio interesse, anche se poi non sono necessariamente trattati nel volume. In ogni caso, il primo è e riguarda la differenza di atteggiamenti e posizioni all'interno di quello che noi chiamiamo mondo cattolico, diciamo la Chiesa cattolica, nei confronti dei regimi fascista e nazista. Una serie di personaggi, spesso con impostazioni diverse, una linea non sempre bene identificabile da parte dell'autorità, proprio perché ci sono dei personalismi di carattere, diciamo, appunto individuale, ma anche diverse impostazioni delle sottolineature che non sono solo sottolineature, ma che vanno a influenzare proprio la linea della Chiesa locale o di alcune parti della Chiesa locale. Anche questo vorrei dire, niente di nuovo sotto il sole, insomma, anche oggi molto spesso aspetti che riguardano la pastorale, la religione, eccetera, devono confrontarsi anche con la situazione politica, con la situazione sociale ed economica, di cui in qualche modo sono tenuti ad esprimere un giudizio. Quindi diversità di atteggiamenti. Il secondo aspetto riguarda invece una complessità della nostra situazione, che poi non è solo della nostra situazione, ma che qui emerge in modo particolare, perché per esempio parlando della figura del canonico Gamper, che è abbastanza centrale in questo libro, è sempre difficile definire poi che cosa lui sia dal punto di vista dell'atteggiamento, cioè è un nazionalista, è uno che punta al Volkstum, è un pangermanista, è un patriota, tutti i nomi che anche oggi vengono utilizzati per definire questa o quella corrente politica, questa o quella scelta politica, ma che di per sé poi si manifestano in modo differente. Qui in Alto Adige, anche quando parliamo di filo nazismo, non sappiamo esattamente di cosa stiamo dicendo se non definiamo bene tutto il contesto, anche in epoca, appunto, anni 30, perché si poteva essere filo nazisti e allo stesso tempo essere antifascisti, mentre antifascismo, diciamo, poi nell'uso comune di questo termine, in teoria dovrebbe comprendere anche l'antinazismo, no? Ecco, sono tutte delle parole che noi usiamo, ma che qui si mescolano, perché si può essere antifascisti, però filonazisti, oppure viceversa, oppure fascisti però antinazisti, e queste sono le situazioni che infatti si determinavano in quel periodo, quando la parte ufficiale del regime fascista e del regime nazista andavano d'accordo, mentre i filonazisti altoatesini erano necessariamente antifascisti. Quindi la complessità anche dal punto di vista del linguaggio emerge dallo studio della dottoressa Esposito. E come dicevo, nazionalismo, patriottismo, pangermanesimo, Volkstum. Se una politica è fascista, se una politica è nazionale o nazionalista. Anche qui l'atteggiamento del regime fascista nei confronti dell'Alto Adige, no? Che noi definiamo normalmente con il termine di italianizzazione o snazionalizzazione, ma quanto era questo e quanto era anche o soprattutto un processo di fascistizzazione che riguardava non solo l'Alto Adige ma tutto il territorio nazionale, cioè la costruzione di questo uomo nuovo, eccetera, no? In questo contesto va letta anche lo sforzo di rendere italiani gli altoatesini di lingua tedesca. Quindi snazionalizzazione, fascistizzazione. Questo è un aspetto che emerge, che diciamo non è trattato specificamente nel libro, ma emerge in ogni sua pagina. Stampa e Chiesa Cattolica tra le due guerre. Anche qui una situazione complessa, non solo tra le due guerre, ma già prima. Cioè già prima, complessa perché? Non solo per le differenti posizioni e anche per le differenti correnti esistenti all'interno del cattolicesimo locale e tirolese, i più conservatori, i cristiano-sociali, ma anche dal punto di vista territoriale. Quindi la presenza di, sto parlando di prima della prima guerra mondiale, di diversi organi di stampa cattolici che spesso non hanno una funzione o non hanno una missione di tipo nazionale, ma piuttosto di tipo ideologico, quindi rappresentano una posizione antiliberale o antisocialista, e la polemica fatta dai giornali è appunto di tipo diciamo, lo scontro è tra i giornali cattolici, per esempio degli operai, e tra i giornali operai dei socialisti, se le dicono di tutti i colori, mentre molto meno sul piano nazionale. E questa è una situazione che continua anche nei primi anni del dopoguerra, quando poi tutta la stampa viene messa a tacere e rinascono queste testate che possono sopravvivere o sussistere in quanto fanno riferimento alla Chiesa Cattolica e all'azione cattolica. Quindi già prima e poi soprattutto dopo il concordato del 1929 c'è questa area franca, diciamo così, dove anche la stampa di lingua tedesca può continuare ad esistere perché ha alle spalle un protettore importante, naturalmente con la censura, con tutto quello che ci deve essere, però esiste. Se vogliamo, esiste più in Alto Adige che non in altre regioni d'Italia, no? Come voce, tra virgolette, alternativa al regime. La situazione, il ruolo stesso della Chiesa in Alto Adige è complesso, comprende atteggiamenti contraddittori. Il primo motivo è che l'Alto Adige è suddiviso tra due diocesi: a sud la diocesi di Trento e a nord, da Chiusa in su, diciamo così, la diocesi di Bressanone. Quindi due vescovi differenti, due strutture differenti. Già nel 1922 questa situazione sarebbe stata in qualche modo sanata dal Vaticano, assegnando la parte altoatesina alla diocesi di Bressanone, un provvedimento che viene però subito bloccato e che rimarrà in sospeso fino al 1964. La Chiesa però rimane questo ambito in cui la cultura, la lingua tedesca può continuare a essere praticata. L'esempio è l'insegnamento della religione, che viene fatto in lingua tedesca al di fuori della scuola. Poi le conseguenze del concordato fanno capo alla Chiesa Cattolica le uniche due scuole dove si continua ad insegnare in lingua tedesca, che sono i due seminari maggiori, minori di Tirolo e di Bressanone, frequentati quindi da un certo numero di persone che poi andranno a formare la classe dirigente negli anni successivi. E poi questo scudo riservato alla stampa cattolica. Per quanto riguarda ancora alcuni dati, e poi chiudo, la diocesi di Bressanone negli anni 30 conosce un primo periodo, diciamo fine anni 20, di sede vacante con amministratore Josef Mutschlechner, cui segue la nomina del vescovo Geisler, che sarà lui stesso una figura tragica, diciamo così, nei due decenni abbondanti del suo episcopato, dal 1930 al 1952, tutto il periodo degli anni 30, le opzioni, la guerra. Seguirà invece poi l'epoca del vescovo Gargitter dal 1952 in poi. E poi questa figura accanto a Geisler del vicario generale Pompanin, suo grande suggeritore. A Trento è una situazione molto diversa, perché dal 1904 è vescovo Celestino Endrici, che lui invece, diciamo, proviene dall'impero austro-ungarico, quindi è stato nominato, diciamo, col placet dell'imperatore, poi ha avuto problemi nelle contese nazionali prima della guerra, durante la guerra è stato confinato e dopo la guerra comunque si mantiene lui e i suoi collaboratori su una posizione tutto sommato diciamo, non troppo malleabile nei confronti del regime e comunque attenta anche alle esigenze della parte di lingua tedesca della sua diocesi. E una figura interessante ai tempi di Indrici è il vescovo coadiutore, nominato nel 1935, è rimasto a Trento fino a 38, Enrico Montalbetti. Anche lui un personaggio acuto che si rende subito conto della situazione in Alto Adige. E poi la figura del vicario episcopale Kögl, anche lui importante anche nel dopoguerra. Anche qui il Gamper, di per sé lui è sacerdote della diocesi di Trento, arcidiocesi di Trento, quindi ha a che fare con tutti questi personaggi. Nella diocesi di Trento ci sono anche altri che in quegli stessi anni si pongono il problema dei rapporti con non solo col regime fascista, ma anche con il nascente nazismo, e uno di questi è Josef Mayr-Nusser, che proprio nelle file dell'Azione Cattolica si confronta con l'ideologia nazista e anche lui partecipa, scrive in alcune di queste pubblicazioni, la Jugendwacht per esempio, dell'Azione Cattolica, e su posizioni molto critiche rispetto all'ideologia del Volkstum, dell'etnia, del popolo, eccetera. Ecco, a Endrici sussegue Carlo De Ferrari dal 1941. Ecco, l'ultima cosa che direi mette in luce questa complessità all'interno delle due diocesi è data dal periodo delle opzioni, quando per esempio a Bressanone i vertici della diocesi si schierano a favore dell'opzione per la Germania e dell'espatrio, mentre la gran parte del clero opta invece per tra i Dableiber, diciamo così. Quindi questa scollatura a Bressanone tra vescovo e clero, ma anche tra clero e popolazione, e mentre nella parte tridentina vescovo e clero vanno d'accordo, ma anche qui c'è uno scollamento col resto della popolazione. Ecco, al centro, come dicevo prima del discorso, c'è questa figura controversa rappresentata dal canonico Michael Gamper, personaggio citato molto spesso, a lui sono intitolate anche strade, case, eccetera, che creò sempre, oltre a tutto quello che ha messo in atto, anche grattacapi proprio ai suoi superiori, in particolare ai suoi superiori nella diocesi di Trento, il vicario generale Kögl, e poi anche con Gargitter successivamente ci saranno delle frizioni, ma qua siamo già negli anni 50, quindi molto più in là. Ecco, cito per concludere due frasi tratte dalle prime pagine del libro. Una definizione riferita a Gamper e data da Leo Hillebrand riguarda l'anteposizione dei valori etnici ad ogni altra istanza, sia religiosa, sia politica e ideologica, riferito a Gamper. E un'altra, l'attività del canonico Gamper e del suo gruppo è di rilievo non secondario nello spianare la strada alla penetrazione del nazismo in Alto Adige, almeno fino ad una certa data. Ecco, e quindi con queste due affermazioni passerei la parola al dottoressa Esposito, chiedendole proprio rispetto alla figura di Gamper, conoscendo tutto quello che è stato pubblicato, anche il ruolo che gli è attribuito, il ruolo anche simbolico per quanto riguarda poi gli sviluppi successivi della vicenda altoatesina. Ecco, lei nell'introduzione esprime una posizione abbastanza critica, quindi la inviterei a partire da questo, se è d'accordo. Allora, innanzitutto ringrazio la biblioteca per avermi invitato qui a questa presentazione. Non avrei mai pensato di arrivare proprio al cuore, diciamo così, della vicenda, insomma, l'ambientazione di questa vicenda per presentare questo testo, e quindi insomma la cosa mi fa indubbiamente piacere. Per quanto riguarda, diciamo, le osservazioni con cui, diciamo, il dottor Valente è partito, diciamo, quindi questo problema di classificare una figura in senso nazionale, in senso pangermanista o altro, fascista, nazista, antifascista, antinazista, eccetera, direi che qui siamo proprio con questo studio alle origini, diciamo, di questo, di questa questione, di questo intreccio di significati, perché proprio qui, attraverso i documenti, che noi finalmente possiamo arrivare a capire che cosa si intendesse all'epoca per nazionalista o per pangermanista o per antifascista, laddove ci fosse. Perché se cerchiamo, se ci caliamo, diciamo, per così dire, attraverso la lettura dei documenti nell'epoca in cui furono scritti, forse allora possiamo anche intuire con maggiore chiarezza appunto il significato che i contemporanei davano a questi termini, e al tempo stesso evitiamo di fare un'operazione che è antistorica, che è quella di sovrapporre gli attuali significati che noi conferiamo a queste parole, a questi termini, trasponendoli tal quali in un'epoca in cui invece tutto questo aveva altro significato. Quindi un conto è parlare di nazionalismo negli anni 30, un conto è parlare di filonazismo negli anni 30, un conto invece adesso fare i conti con il distacco che ormai è maturato, non soltanto, ma il distacco anche, diciamo, molto critico nei confronti di queste ideologie. Ma postici invece in quel contesto, è da lì che dobbiamo partire per esaminare attraverso i documenti appunto come queste figure, che di volta in volta vengono appunto qualificate come fascista o nazista, eccetera, appunto quale significato per i contemporanei la cosa rivestisse. E a proposito di Gamper, ecco, io potrei qui a questo punto forse mostrarvi proprio la scheda segnaletica con la quale fin dagli anni 27-28, se non sbaglio, adesso vi dico subito, ecco, il canonico Gamper era ecco, questa è praticamente un fascicolo personale intestato al canonico Gamper, non so se si è chiara la visione, e con una scheda segnaletica compilata addirittura dal prefetto che all'epoca era Guadagnini, il prefetto allora della Venezia Tridentina, quindi che era ancora anteriore, diciamo, alla creazione della provincia, in cui appunto il prefetto dà conto di questa figura che indubbiamente già allora aveva un rilievo tutt'altro che banale, insomma, all'interno del clero allogeno. Clero allogeno era appunto la definizione con la quale l'autorità fascista designava questo clero di lingua tedesca dell'Alto Adige, che da subito, insomma, si può dire, pose problemi alle autorità fasciste, perché da subito si capì, diciamo, il ruolo grande e importante che questo clero svolgeva all'interno della comunità locale. Ma forse conviene leggere anche un attimo proprio la scheda di Gamper. Ecco, non fa mistero delle sue opinioni politiche e più volte è incorso in contravvenzione alle disposizioni vigenti per reati di stampa. Anche allora, appunto, Gamper già era in posizione molto in vista all'interno del gruppo editoriale Vogelweider, come direttore, credo allora, del quotidiano locale. È fortemente sospetto di collaborare in giornali d'oltre Brennero, che svolgono attiva propaganda irredentista ed opera diffamatoria contro la nazione italiana. Il Gamper non ha mai tralasciato occasione per denigrare le nostre istituzioni e criticare l'operato degli organi legalmente costituiti, ed in special modo la polizia e la magistratura. È elemento quanto mai pericoloso, anche per l'ascendente che gli viene sulla popolazione dall'abito che indossa, ed è ritenuto capace di esercitare lo spionaggio ai nostri danni. Risulta sempre in corrispondenza con personalità religiose e politiche di oltre Brennero e riceve anche stampe e giornali. Ah, scusate, la scheda in questo caso era firmata dal prefetto Marziali. E questo appunto per dire che la figura di Gamper, ancora prima diciamo che arrivasse il prefetto Mastro Mattei, quindi dopo l'avvento, insomma, la Machtergreifung in Germania da parte di Hitler, era già noto appunto come figura, come dire, cripto-pangermanista. Infatti una delle altre accuse che sono riportate, cioè, all'interno di questa scheda segnaletica è quello di essere stato un propagandista, un agitatore della Lega Andreas Hofer, che era giudicata una Lega irredentista, una Lega assolutamente quindi non un'associazione non ammessa in territorio italiano, perché gli obiettivi erano evidentemente contrari a quelli che il regime perseguiva nella regione. Ora sappiamo tutti, sapete tutti voi per primi, che l'Alto Adige è stato annesso all'Italia, questa regione il Sud Tirolo è stata annessa soltanto in seguito ai trattati della Prima Guerra Mondiale. Questi trattati peraltro stabilivano che la situazione della minoranza che esisteva all'interno di questa regione dovessero essere risolte in qualche modo dal governo italiano senza far riferimento ad alcuna altra autorità esterna, no? A differenza di quello che sarà imposto invece a molti paesi, diciamo, sconfitti nel conflitto, in cui appunto il trattamento delle minoranze viceversa era sotto tutela, sotto una tutela internazionale, in qualche caso appunto della Società delle Nazioni. In questo caso invece si stabiliva che il governo italiano doveva risolvere la cosa esclusivamente come problema interno. La cosa si giustificava perché? Perché in qualche misura, diciamo, il trattato che aveva dato, che aveva consegnato il Sud Tirolo all'Italia, in qualche modo voleva dare all'Italia un confine certo, un confine assolutamente naturale, come si esprimevano allora, no? Dal punto di vista geografico, dal punto di vista della possibilità di difendere i propri confini in maniera valida. E quindi appunto anche lo stesso Wilson, lo ricorderete senz'altro, lo stesso presidente Wilson, che si era fatto paladino, diciamo, delle minoranze, no? E quindi di una sistemazione della carta geopolitica europea che in qualche modo tenesse conto, insomma, della volontà, dell'autodeterminazione delle popolazioni presenti, aveva accettato in qualche modo, diciamo, l'accorpamento del Sud Tirolo all'Italia, nonostante la presenza appunto di una consistente minoranza tedesca, proprio perché il criterio appunto della difesa nazionale era quello che in qualche modo sopravanzava anche le istanze di autodeterminazione, in questo caso da parte della popolazione locale. Dopo questo excursus, allora torniamo alla situazione appunto che il fascismo si trova ad ereditare. Insomma, sapete, appunto, il fascismo va a potere nel 22 e da subito ritiene che in Alto Adige, in questa regione, le cose non si siano messe nel modo giusto, proprio perché appunto non c'è da parte della popolazione l'accettazione di questa situazione che i trattati internazionali hanno ratificato, cioè comunque persiste questa aspirazione a cercare, insomma, in qualche modo un riscatto da quella che è percepita come una dominazione straniera, e quindi la ricerca che viene fatta di volta in volta appunto di trovare udienza presso autorità, paesi stranieri, per poter ribaltare in qualche modo quella che era stata la sistemazione sancita dai trattati di pace. Un compito che il fascismo naturalmente si trova ad operare in un ambiente decisamente ostile. Un ambiente molto ostile e in cui appunto si percepisce molto presto che è proprio il clero ad avere una funzione che va in qualche modo al di là di quelle che sono le sue funzioni dal punto di vista istituzionale, cioè quello appunto di come dire, sovraintendere al momento religioso, ma esercita viceversa una influenza di tipo diverso, un'influenza che si potrebbe chiamare proprio di tipo nazionale, nazionalista se vogliamo. E cioè dove appunto il clero non si fa paladino in qualche modo del carattere tedesco e del mantenimento del carattere tedesco di questa regione in vista probabilmente di futuri assetti politici che in qualche modo rimettano in discussione anche l'appartenenza dell'Alto Adige, come ormai è stato ribattezzato il Sud Tirolo, all'Italia. Ora, il fascismo chiaramente non poteva accettare una, come dire, una provvisorietà, una condizione di provvisorietà in Alto Adige, ma doveva a tutti i costi, anzi, cercare dal suo punto di vista di realizzare il più presto possibile una coesione potente, diciamo, anche e soprattutto ai confini dello Stato, perché solo questo, diciamo, solo questa condizione di coesione, di intima fusione fra tutte le popolazioni che costituivano lo Stato italiano avrebbe poi permesso all'Italia, come nuovo soggetto di politica internazionale, di scendere finalmente nell'agone internazionale e di proporsi mete ambiziose. Fino a che però questo obiettivo, non questa condizione, diciamo, di perfetta coesione attraverso, appunto, come accennava anche il dottor Valente, la formazione di un italiano nuovo, ecco, il problema per tutta l'Italia era quello di dar vita ad un italiano che non fosse più un soggetto paragonabile appunto a quello descritto a suo tempo da Machiavelli o dallo stesso De Sanctis, no? Quindi un soggetto che in qualche modo si era formato dopo secoli di dominazione straniera una mentalità assolutamente servile, e bisognava riscuotere questa mentalità, scuoterla dal profondo e dare vita viceversa ad un italiano nuovo, nuovo dal punto di vista della mentalità, perché deciso ormai a far valere le proprie ragioni non soltanto appunto sul piano interno, ma soprattutto sul piano internazionale. E tutto questo poteva essere, diventare un obiettivo in qualche modo raggiungibile solo se, appunto, come prima condizione si fosse creata una situazione di perfetta omogeneità all'interno del paese fra tutte le sue componenti, quindi in primis anche per quanto riguardava questa consistente minoranza che continuava viceversa a guardare verso il mondo germanico, perché il problema è proprio questo, insomma. E a un certo punto in uno di quei documenti si parla proprio, credo en passant, di questa situazione diversa che caratterizza in qualche modo l'Alto Adige rispetto ad altre zone d'Italia che pure ospitano delle minoranze, per esempio la Val d'Aosta, no? Dove appunto non c'è però, almeno secondo le autorità fasciste dell'epoca, in Val d'Aosta per esempio un atteggiamento di irredentista, cioè che tende a sovvertire quella che è, diciamo, lo status quo, l'assetto ufficiale dello Stato per inseguire sogni di tipo diverso. Nel caso invece appunto dell'Alto Adige tutto questo era una realtà ancora molto molto forte, perché appunto, come detto, se la rappresentanza politica in qualche modo era stata eliminata, esisteva però appunto una forma di così sotterranea di sotterraneo collegamento del mondo altesino con il mondo germanico attraverso appunto l'appartenenza per esempio a queste leghe irredentistiche di cui anche lo stesso Michael Gamper aveva fatto parte. Quindi per tornare, diciamo, al discorso di Gamper, prima ancora del 33, quindi la sua è una figura in qualche modo già messa un po' nel mirino, no? Con la quale si ritiene di avere dei problemi, soprattutto perché appunto Gamper non è un semplice canonico, ma appunto dietro di sé una casa editrice importante, una casa editrice che è cresciuta nel tempo, soprattutto, diciamo, fra l'inizio del secolo e la prima guerra mondiale, già era riuscita, quindi ancora in un ambito che era quello dell'impero asburgico, a realizzare una sorta di monopolio, diciamo così, dal punto di vista editoriale per quanto riguardava la stampa cattolica. E questa situazione naturalmente prosegue anche nel dopoguerra. Naturalmente ci sarà una scissione, perché all'epoca la casa editrice naturalmente si chiamava Tirolia, e sapete che, insomma, appunto avendo essendo una parte comunque legata al mondo germanico, dovette naturalmente a un certo punto la casa editrice, che viceversa risiedeva a Bolzano, prendere un altro nome, prenderà poi il nome della Vogelweide, e però questo legame, diciamo, veniva mantenuto in qualche modo, anche se in modo appunto, come si diceva, sotterraneo. E l'ispirazione di Gamper quindi rimane quella, credo che si possa dire appunto sulla base dei documenti non soltanto delle autorità fasciste, ma anche di molti, come poi vedremo, anche di molti esponenti del clero che non erano esattamente sulla linea di Gamper, è una posizione di difesa a oltranza del germanesimo, anche laddove, come poi vedremo nel corso degli anni 30, appunto questo germanesimo, la difesa di questo carattere tedesco tout court, verrà presa su di sé dal Reich tedesco, ma dal Reich tedesco ormai sotto la tutela nazista, perché dal 1933 la situazione cambia profondamente, diventa un momento di passaggio decisivo anche per le vicende dell'Alto Adige, perché se nel periodo precedente la posizione di Hitler relativamente all'Alto Adige era nota e aveva portato anzi a una caduta, diciamo così, delle fortune di Hitler presso la popolazione altoatesina. La tesi ufficiale, sapete, quella appunto che è contenuta nel Mein Kampf, ma poi anche nel secondo libro, eccetera, recitava un po' in questi termini, semplificando. L'obiettivo del futuro Stato nazista è effettivamente quello di riunire diciamo tutti i tedeschi, tutte le minoranze tedesche di Europa sotto un solo Reich. Però per raggiungere questo, che è l'obiettivo che ci proponiamo, abbiamo bisogno di alleati, e l'alleato principe in questa opera che necessariamente dovrà puntare a uno scardinamento della Europa di Versailles, cioè dall'Europa uscita dai trattati della Prima Guerra Mondiale, può essere soltanto l'Italia, perché l'Italia, diciamo, è secondo Hitler il naturale alleato, perché anche l'Italia ha una serie di rivendicazioni da proporre nei confronti della Francia, si oppone all'egemonia francese sul continente, che è secondo Hitler il risultato che questa guerra, che questi trattati hanno portato alla luce. E per fare questo quindi bisogna tenersi, come dire, buono Mussolini, che è poi, diciamo, l'uomo politico di riferimento anche per Hitler, il quale guarda Mussolini in questo periodo come un esempio da seguire, perché gli addita, insomma, quella che può essere anche la strategia per conquistare il potere. Comunque questo rifiuto che a un certo punto Hitler esprime, nel periodo appunto prima dell'andata al potere, nei confronti della rivendicazione dell'Alto Adige, gli aliena il favore della popolazione altoatesina, e quindi le fortune dei nazisti in questo periodo sono bassissime. Bisogna dire che però anche all'interno del mondo nazista questa posizione, come forse molti di voi sapranno, non era condivisa da tutti. Cioè, se la parola d'ordine di Hitler appunto espressa non soltanto nei suoi libri, ma anche in interviste, eccetera, rilasciate a giornali, tanto in Germania quanto anche in Italia, ribadiva appunto questa rinuncia senza remore alla rivendicazione dell'Alto Adige, dall'altro però sappiamo che non tutti la pensavano così, soprattutto, diciamo, quei nazisti o bavaresi, ma non solo, perché poi per esempio sappiamo che Goebbels non aveva mai in realtà pensato che fosse questo un obiettivo da perseguire, cioè insomma la rinuncia dell'Alto Adige non era qualcosa che si potesse dar via, che si potesse, diciamo, accettare così facilmente. E quindi diciamo che prevaleva in fondo in questi circoli l'idea che forse, pur non contestando apertamente le parole di Hitler, era possibile comunque interpretare questa sua posizione semplicemente come una manovra tattica, come dire, come una parola che doveva essere detta per tranquillizzare la diplomazia internazionale, ma che era suscettibile di essere ritrattata allorché fossero maturate condizioni politiche internazionali tali da permettere di ridiscutere la sistemazione territoriale anche dell'Alto Adige. E quindi c'è questa appunto duplicità anche all'interno del mondo nazionalsocialista. Ecco, tornando ai nostri documenti, è proprio dopo il 33 che comincia appunto a manifestarsi un orientamento diverso all'interno appunto della cerchia che fa capo al canonico Gamper. E noi come veniamo a sapere di questo nuovo orientamento? Come vi dicevo, io ho consultato delle fonti, che sono le fonti vaticane da un lato, ma sono poi le fonti dell'archivio dello Stato, l'archivio centrale dello Stato, e qui naturalmente abbiamo a disposizione i rapporti di polizia, le lettere del prefetto, diciamo le comunicazioni che il prefetto faceva al Ministero degli Interni, abbiamo poi diciamo tutta l'opera di informazione che compie la polizia politica per dare conto della situazione dello spirito pubblico in Alto Adige. Ebbene, attraverso poi ecco, un altro tipo ancora di informazione che verrà messa su proprio dal nuovo prefetto, da Mastro Mattei, cioè attraverso la revisione delle lettere degli altoatesini, questo lavoro minuzioso che viene compiuto insomma da uno scuolo di interpreti che evidentemente riescono facilmente, insomma, leggendo alcune parole chiave, a capire che si tratta di qualche cosa, di un messaggio potenzialmente pericoloso, appunto vengono tradotte, il prefetto naturalmente poi laddove ne sia il caso mette sotto vigilanza il soggetto in questione, colui che ha spedito la lettera o colui che la riceve e via dicendo. Comunque attraverso tutta questa rete di informazioni che il fascismo riesce a mettere in piedi risulta appunto che all'interno di questa casa editrice sta maturando qualche cosa di nuovo. E forse diciamo la figura chiave in questo senso può essere considerata appunto il giovane Rudolf Hillebrand, che è questo giovane giornalista che aveva fatto parte prima della redazione del Tiroler o del Landsmann, e che poi dopo insomma non riesce a mantenere la sua posizione di redattore capo nella sezione di Merano del Dolomiten, perché non riceve appunto dalle autorità italiane la conferma per poter essere inserito nell'albo dei giornalisti. La nuova legge sulla stampa prevede infatti che appunto anche le credenziali politiche insomma di ogni giornalista debbano essere assolutamente cristalline sotto questo profilo, e certamente insomma la figura di Hillebrand non lo era. Hillebrand però sappiamo, e non dalle fonti, in questo caso le fonti italiane, ma dall'opera del professor Leopold Store, è stato uno dei primi responsabili di questa organizzazione clandestina filonazista che era stata creata in Alto Adige dai giovani, soprattutto dall'ultima generazione, la quale appunto contestava ormai il modo in cui veniva svolta dai rappresentanti politici tradizionali della regione l'opposizione al governo italiano, e quindi cercava altri modi, altre strade per poter ottenere soddisfazione. E una di queste strade era appunto, cioè la strada principale era quella di rifarsi al modello nazionalsocialista, anche come la struttura del diciamo di partito eccetera, e soprattutto insomma di puntare sulla Germania come il nuovo, come dire, il nuovo punto di riferimento a scapito dell'Austria. L'Austria che nei primi tempi insomma era stato un po' il paese che in qualche modo aveva cercato di fornire una forma di tutela agli altoatesini di etnia tedesca, e che però insomma, come vedremo, non riuscirà a decollare in questo ruolo e sarà costretta, insomma verrà emarginata assolutamente dalla Germania nazista. E diceva appunto, per tornare a Hillebrand, lei mi interrompa però perché il discorso diventa troppo allora per tornare a Hillebrand, ecco, Hillebrand viene e ci si stupisce a un certo punto di scoprire che Hillebrand ormai si è trasferito a Berlino e che lavora lì presso addirittura l'ufficio estero di Goebbels, oppure secondo un'altra informativa presso un altro insomma esponente di primo piano della dirigenza nazionalsocialista, e ci si stupisce proprio perché si conosce la sua provenienza, cioè si sa che era un giornalista cattolico, un giornalista che faceva parte di quel gruppo e che appunto, non abbiamo detto questa cosa importante, cioè l'ha accennata prima il dottor Valente, ma insomma tutta la stampa cattolica con il concordato del 29 era stata messa in una botte di ferro, perché praticamente le difficoltà che aveva con il regime a causa del tono non propriamente, diciamo, filofascista delle sue pubblicazioni, l'aveva messa chiaramente nel mirino delle autorità fasciste. Ma il tentativo, c'è stato anche un tentativo appunto poco prima del concordato del 29 di arrivare in qualche modo a mettere sotto controllo la stampa cattolica, per esempio collocando un, come dire, una figura chiave della federazione del locale di Bolzano, la federazione fascista locale, in veste di, come dire, sovrintendente all'amministrazione, anzi si era proposto addirittura di fondere la stampa, le tipografie perlomeno della stampa della Vogelweider con quella dei giornali fascisti che in quegli anni, insomma, vedevano la luce. Ma questo tentativo, insomma, era andato a monte proprio perché il vicario apostolico di Bressanone, Mutz Schlechner, aveva molto opportunamente sondato, diciamo, evidentemente i suoi personaggi di riferimento nella curia romana e quindi aveva avuto l'imbeccata, diciamo così, di presentare questi giornali come giornali dell'azione cattolica, quindi come tali indispensabili per l'azione pastorale della Chiesa in Alto Adige. Ma la manovra era stata così concepita così bene, diciamo così furbamente, per cui a un certo punto, oltre ai giornali propriamente, diciamo, di ispirazione cattolica, cioè che in qualche modo potevano avere riferimento appunto l'apostolato, il religioso, vennero poi anche inserite altre riviste che erano edite dal gruppo e che furono appunto inserite in questo gruppo di testate, appunto messe sotto chiave in qualche modo dal Vaticano come testate dell'azione cattolica, per le quali quindi l'autorità fascista non aveva più nessuna arma a disposizione per poter sollevare, come dire, il velo e fare chiarezza per esempio sulle fonti di finanziamento, perché un altro problema che si pone alle autorità fasciste in questo periodo è proprio di capire come mai l'attività di questi giornali sia così fiorente, perché il gruppo della Vogelweider ha un bilancio da fare invidia non soltanto, diciamo, ai giornali fascisti, qui insomma bisognerebbe stendere un velo pietoso perché obiettivamente, insomma, non riuscivano a decollare i giornali che il regime aveva cercato di far sorgere qui in provincia, ma la stampa dell'Alto Adige, per parola dello stesso Gamper, era in grado di sovrastare, insomma, per efficienza, per capacità, insomma, proprio di manageriale in qualche modo, anche tutto il mondo della stampa cattolica bavarese e della Germania in genere, per cui addirittura da questi paesi si chiedeva a Gamper consulenze su come fare per esportare il suo modello anche in questi paesi. Il modello, in effetti, come poi noi veniamo a scoprire attraverso questi documenti, è un modello basato appunto in sostanza sulla dittatura di Gamper all'interno di un consiglio di amministrazione formato da pochissimi soci, tutte figure, come si dirà in un documento, di secondo piano, che erano tutte creature in qualche modo dello stesso canonico e il quale pertanto non trovava all'interno di questo consiglio di amministrazione nessuna opposizione, soprattutto per quanto riguardava appunto il perseguimento di una certa linea politica. E ecco, qui a questo punto forse è il caso di ricordare che nel 35 in Alto Adige viene spedito un informatore di varie branche dell'amministrazione statale fascista, ma che in questo caso, diciamo, si rivolge direttamente, manda i suoi rapporti direttamente alla sottosegretariato per la stampa e propaganda, che allora era retto appunto da Galeazzo Ciano, ancora non, diciamo, se già genero di Mussolini, ma ancora non arrivato, insomma, ai vertici dell'amministrazione statale, come poi sarà con la nomina a ministro degli esteri. In questo periodo appunto questa figura che vi dicevo, Valerio Benuzzi, un personaggio che contava molte entrature nel mondo atesino, offre i suoi servizi a Ciano e gli scrive, proprio evidentemente erano i rapporti, e gli dice di avere la possibilità di prendere informazioni su come era organizzato questo mondo tedesco, perché ha a disposizione delle conoscenze, delle ottime entrature, fra l'altro anche, come poi si scoprirà, dei personaggi che erano in relazione addirittura anche con il cancelliere austriaco Schuschnigg, quindi insomma non si parla di personaggi di seconda o terza schiera, ma di evidentemente notabili o comunque insomma personaggi eminenti. Addirittura poi vediamo, insomma, emerge anche la figura di un ex collaboratore di Gamper, qualcuno che comunque era stato, se non in quegli anni, ma negli anni immediatamente precedenti, presente all'interno del consiglio di amministrazione della Tirolia e che quindi conosce molto bene la figura di Gamper. Ebbene, proprio da questi documenti noi veniamo a sapere che Gamper ha maturato in qualche modo un rapporto speciale con il mondo germanico e soprattutto con gli attuali reggitori del mondo germanico, quindi in particolare, propriamente detto, il mondo che gravita attorno al nazionalsocialismo, perché, diciamo, secondo queste informative, proprio Gamper, insomma, è il referente principale per questo organismo, il VDA, se mi aiuta a sciogliere in questo momento, una VDA. VDA. Lega per il germanesimo. Ecco, Lega per il germanesimo all'estero. Questa Lega per il germanesimo all'estero era un organismo che preesisteva in realtà al nazismo, ma che poi dopo l'avvento al potere del nazismo, come quasi tutte le altre, diciamo, istituzioni tedesche, viene portato sotto il controllo dell'autorità, delle nuove autorità naziste, e quindi anche se mantiene, diciamo, formalmente in carica il vecchio presidente Steinacher, che era una figura, diciamo, molto nota anche qui a Bolzano in rapporto con Gamper, comunque insomma questa organizzazione passa interamente sotto la tutela nazista. Ebbene, appunto, questo informatore che vi dicevo, Benuzzi, mette in luce proprio questi collegamenti molto pericolosi che Gamper ha con tutto questo mondo, in quanto Gamper è colui che riceve dalla VDA proprio queste somme che poi è incaricato di distribuire, per esempio, ai contadini bisognosi o con le quali addirittura finanzia i suoi giornali. E quindi questo in qualche modo dà una spiegazione del perché le fortune della casa editrice siano così alte, così elevate, perché in realtà, diciamo, le vere fonti di finanziamento sono esterne alla casa editrice. E questa è una cosa su cui, appunto, come abbiamo detto, le autorità fasciste avevano cercato in un primo tempo di fare chiarezza, ma poi, insomma, con l'avvento del concordato non avranno più possibilità di mettere il naso negli affari della Vogelbach. Quindi devono accontentarsi, appunto, delle segnalazioni che dà questo informatore, il quale, appunto, punta il dito proprio contro Gamper, perché appunto lo individua, lo qualifica come il referente principale del nazismo nella regione. Ecco, non so se vogliamo leggere una citazione su Gamper, proprio adattata da uno di queste. Ecco. Allora, Gamper e compagni lavorano negli stretti limiti concessi ad essi dalla vigilanza del regime per dare un sempre più intenso incremento alla formazione di un partito o di un movimento illegale che non è nazista propriamente detto, ma tedesco nazionale, con quella stessa sottile distinzione che differenzia apparentemente il partito di Heinlein nella Cecoslovacchia dal nazismo. Ci risulta del resto che in Austria si sta procedendo sistematicamente allo stesso camuffamento, cioè i nazisti e i filonazisti amano qualificarsi tedeschi liberali o Grossdeutsche, che in fondo e in lingua povera vuol dire pangermanisti. In un paese cattolico come l'Alto Adige è più prudente chiamarsi tedesco nazionale o liberale piuttosto che nazista, cosa che fa appunto, senza dirlo, Monsignor Gamper. Un attento esame di un'annata dei giornali di Gamper dovrebbe bastare per vedere e capire con quale gesuitica abilità vengono riportate notizie favorevoli ai nazisti e con quale esemplare sobrietà vengono riportate notizie sfavorevoli, per esempio quelle inerenti alle lotte religiose ed altre. Si tratta di un filo nazismo in si bemolle ed in sordina, spesso impercettibile a chi non è fra gli iniziati. I finanziatori germanici comprendono benissimo questa moderazione, senza la quale salterebbe un bel giorno, ma quando, tutta un'organizzazione sapiente appiattata dietro le quinte di un giornale e di una casa editrice. Allora, questa è la posizione di Benuzzi, e forse si potrebbe obiettare, ma in fondo questo è un informatore, ne sappiamo se dice delle cose vere o fasulle, insomma si potrebbe ritenere in fondo poco affidabile. Del resto lo stesso Benuzzi, insomma, se per un verso era considerato molto all'interno del Ministero degli Interni, in altre branche dell'amministrazione non lo era altrettanto, quindi possiamo anche prendere, diciamo, con le molle quanto dice Benuzzi. Però ci sono altre testimonianze, questa volta che ci pervengono attraverso quel servizio di revisione postale messo in campo appunto dal prefetto Mastromattei, che ci portano appunto testimonianze questa volta di personaggi molto vicini alla casa editrice, cioè innanzitutto di tedeschi, cioè tedeschi di altoatesini di etnia tedesca, che sono stati collaboratori di Gamper in passato, o addirittura, ecco, meglio ancora, sacerdoti questa volta, come nel caso del padre Firmin Prast, che era docente al Borromeo di Salisburgo, quindi un seminario di Salisburgo, il quale appunto, essendosi trovato in vacanza per un periodo, un soggiorno estivo in Alto Adige, si impressiona moltissimo di quella che è, diciamo, l'atteggiamento della stampa cattolica locale, e cerca appunto di mettere in guardia in questo senso anche il vescovo Geisler, ormai appunto la sede ha il suo vescovo, e quindi decide di approntare appunto un memoriale da sottoporre direttamente al vescovo perché prenda provvedimenti nei confronti di questi due giornali, cioè Dolomiten e Volksmund, che sono i due principali periodici della casa editrice Vogelweider. Io voglio leggervi questo periodo, questo brano. Allora, sono certo di incontrare la piena comprensione di vostra eccellenza eminenza nell'opportunità di ovviare al minacciante pericolo. È in ogni modo molto deplorevole che giornali cattolici come Dolomiten e Volksbote da lungo tempo abbiano assunto un atteggiamento molto benevolo verso il nazionalsocialismo. Da ciò ne deriva che fra i contadini si legga con molto piacere il libello nazista bugiardo e diffamatorio, ossia il Völkischer Beobachter, che era l'organo del partito nazista, che già da un pezzo dovrebbe essere proibito. Gli uniti articoli del locale giornale cattolico Salzburger Chronik si presterebbero a venire pubblicati sui giornali tirolesi. Per una maggiore diffusione, se questa si potesse attuare, farei stampare dei manifestini volanti da distribuire fra la popolazione. Cioè, l'intenzione di Prass era proprio quella di mettere in guardia i tirolesi, i sud tirolesi, da rivolgere le loro aspettative nei confronti del nazismo, piuttosto che, insomma, dei tradizionali, soprattutto per i pericoli che il nazismo racchiudeva come dottrina anticattolica. Vi dicevo appunto anche dell'altra testimonianza, questa presa appunto da una lettera che l'avvocato d'incausa, appunto questo ex collaboratore di Gamper, inviava ad un suo corrispondente, credo che fosse proprio il ministro Pernter, che era diciamo in quel periodo impegnato, diciamo, a mettere a punto quell'accordo, insomma, fra l'Italia e l'Austria, che avrebbe permesso appunto l'istituzione di corsi di lingua tedesca presso l'Istituto Fascista di Cultura, e che dovevano partire di lì a breve. Allora, appunto, in questa lettera Dinkhauser spiega un po' quelli che sono i retroscena di quanto sta avvenendo a Bolzano, e dice: Il nostro colloquio a Innsbruck, quindi si riferisce evidentemente a un contatto che aveva avuto in precedenza con Pernter su questi argomenti che abbiamo ricordato ora. Il nostro colloquio a Innsbruck giunse pochi giorni dopo a conoscenza del canonico Gamper, nonostante che esso fu tenuto in segreto. Egli mantiene un regolare servizio di spionaggio e se ne vanta. Ci fece sapere, anzi, che egli arriva a sapere tutto. Per queste ragioni non abbiamo approvato che Zanger, questa evidentemente è una figura, insomma un personaggio minore, che copre una carica nella Tirolia, copra un posto in quell'ufficio esteri, perché tutto quanto viene riferito alla VDA, appunto alla Lega per il Germanesimo all'estero, ed essa contrariato. La Tirolia trovasi del resto tutta sotto l'influenza del canonico Gamper. Probabilmente a causa del nostro colloquio a Innsbruck, Gamper ha iniziato la lotta contro di noi. Questo Dinkhauser evidentemente voleva favorire questa iniziativa che appunto era stata ottenuta per merito appunto anche dell'impegno austriaco, no, del cancelliere Schuschnigg nei confronti, appunto una perorazione insomma nei confronti di Mussolini, perché appunto anche gli altoatesini attraverso la mediazione appunto dell'Austria riuscissero ad avere qualche risultato concreto per quanto riguardava appunto la possibilità di continuare a studiare nella propria lingua. E questo risultato appunto viene messo in pericolo da Gamper, secondo Dinkhauser. La lettera prosegue in questo modo: a buon punto gli venne, cioè a Gamper, uno stupido articolo della Neue Zürcher Zeitung del 6 corrente, nel quale egli venne apertamente denunciato. Ora è stata divulgata la voce esserne io l'autore, quantunque nulla avessi a che fare con esso, non condivida l'idea in esso espressa e non fosse inoltre nessuno dell'autore. E poi dice: io per queste voci ho già fatto causa alla sorella del barone Sternbach, che è a confino, ma essa ha ritirato tutto quanto aveva detto. Nel frattempo mi sono sforzato di scoprire l'autore e credo di averlo trovato. Esso è uno dei nostri che sta a parte, un avversario personale del canonico Gamper. Non lo posso naturalmente denunciare, stanto che ciò è una mia presunzione personale. E così continua contro di noi la campagna dei circoli dominati dal canonico Gamper. Ci sono già molti che non ci rispondono più al saluto. Ieri persino uno mi faceva la cortese comunicazione che nel caso di una rivoluzione nazista verrei indicato come primo io con alcuni altri signores. Quindi un'aperta minaccia, neppure tanto velata, che sarebbe stata rivolta appunto dai fedeli di Gamper a questo ex, diciamo, come dire, ex appartenente alla stessa cerchia, ma che insomma in qualche modo tendeva a mantenere in auge le fortune dell'Austria, di contro al favore invece che Gamper dispensava evidentemente al momento nei confronti del nazionalsocialismo. Vedo che siamo già insieme, vorrei abusare della vostra pazienza. Io farei alcune domande, ma siccome penso che magari tra il pubblico c'è qualcuno che è interessato a qualche argomento specifico, sì, vorrei vedere se qualcuno vuole prendere la parola, volentieri gliela diamo. A me è rimasta una curiosità. Gamper, quando qui sono arrivati i nazisti, è andato a banca, no? È stato alcune settimane nella canonica di Vaga nascosto. Poi improvvisamente si ritrova a Venezia. Chi l'ha portato a Venezia? Non si sa. No, una curiosità che mi resta. Qui c'erano nazisti, perché non c'erano carabinieri, l'unica autorità erano naziste. Perciò qualcuno l'avrà portato a Venezia. Sì, ma qua Gamper siamo fuggito a Firenze. Sì, poi a Firenze. Sì, sì. Bisogna prima chiarire, no, che il momento delle opzioni del 39, sì, sì, quando Gamper decide di non emigrare, ovviamente, sì, diventa con i suoi collaboratori come Josef Malusser, come Egart, come Friedrich Volker, come Erich Hammond, tutti antinazisti, diventa il nemico numero uno dei nazisti locali e del Reich. Questo bisogna, sì, sì, questo menzionare. Senza... Sì, sì, no, certamente, però è successo nel 1943, ovviamente, certamente, volevano deportarlo, volevano arrestarlo. Sì. Lui si è nascosto sul Renon per alcuni giorni e poi è riuscito, attraverso i suoi amici, la fuga, gli è riuscita la fuga verso Firenze. Quindi lì non ci furono i nazisti che l'hanno... Ma qualcuno parla che è stato i servizi segreti del Reich a portarlo via. Qualcuno dice. Non lo so. I nazisti locali volevano arrestarlo come hanno arrestato altri Dableib antinazisti. Sì, sì. Questo bisogna per correttezza menzionare, mi scusi. No, d'accordo, d'accordo. No, ma la mia curiosità era sapere come ha fatto lui da Vanga andare a Firenze, io pensavo sì, Venezia. Fortuna, sì. Ma sappiamo che anche all'interno, così come all'interno del regime fascista, in quel periodo ci furono delle contraddizioni, insomma, chi già lavorava con gli alleati, aveva contatti, eccetera, e anche nel Terzo Reich, no? Però, insomma, lì sicuramente Gamper, se non fosse riuscito a fuggire, sarebbe, probabilmente, no, sicuramente sarebbe finito in un campo di concentramento, come hanno deportato Rudolf Bosch, Friedrich Volcker, alcuni dei suoi collaboratori. Cioè questa bisogna ben... Tolomei anche se è un'altra cosa. Sì, infatti, e lì siamo a quel punto che per esempio Paolo Valente nell'introduzione giustamente ha detto, in una situazione così complessa di confine come era l'Alto Adige, bisogna distinguere bene quali, insomma, che parole usiamo per antifascismo, per antinazismo. Quindi anche Tolomei, uno dei massimi ispiratori della politica fascista verso l'Alto Adige, è stato arrestato nel 1943 e è andato in un campo di concentramento, è vero, ma per questo probabilmente nessuno dirà che è stata una figura di spicco, lo so, dell'antifascismo o dell'antinazismo, ma è entrato in contrasto con la politica del Terzo Reich in quel momento, questo è vero. Sì, perciò credo Paolo Valente ha subito chiarito, in questa provincia qua, negli anni 30 e 40, qualcuno poteva essere o credersi antifascista ed essere in verità filo nazista, come per esempio almeno dal 43 al 45 qualcuno degli italiani qua poteva vantarsi di essere antinazista, no? O di essere invece di essere un filo fascista, per questa complessità della situazione. Maurizio Ferrante. Scusi, No. Ma premetto una cosa, io non ho ancora letto il libro, cosa che farò rapidamente, perché mi sembra molto interessante le cose che dice e i documenti su quali ha potuto mettere gli occhi. Ora, io credo che la cosa interessante sia però cercare un attimo di vedere anche questi fatti e questi comportamenti in un contesto di un processo storico che comincia ben prima del 18, della fatidica data del 18, dalla quale abbiamo potuto, io per primo, il difetto di far partire l'inizio del mondo, come se prima non fosse successo niente, mentre invece prima erano successe tante cose, si erano formate delle correnti politico-culturali che poi continuano e inquadrando nelle quali personaggi come Gamper si capiscono cose che altrimenti risultano abbastanza poco comprensibili secondo me, come per esempio appunto un Gamper che prima è soggetto in contatto con i nazisti e che poi improvvisamente nel 39, quando ci sono le opzioni, diventa antinazista. Allora, se noi pensiamo per esempio a quello che avviene nella Chiesa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quando parlo di Chiesa parlo sia di quella, diciamo, tedesca, che oscilla tra la Baviera, il Tirolo, l'Alto Adige, sia di quella italiana che ha il suo centro nodale a Trento. C'è un processo di conversione a determinate istanze di difesa delle nazionalità che prima erano del tutto estranee alla dottrina cattolica e che invece poi, sia pure in maniera diversa, diventano un patrimonio. Cioè, prima della fine dell'Ottocento, nel Trentino, la difesa, gli italianissimi erano quasi tutti liberali, poi anche personaggi come Gasperi diventano italianissimi e lo diventano personaggi come Cesare Battisti. Si crea, pur nello scontro tra queste realtà, un fenomeno del genere avviene anche nel mondo di lingua tedesca, dove i Grossdeutsche, i pangermanisti, la Südmark, il Volksbund si muovono, ma anche la stessa Chiesa cattolica, anche gli intellettuali cattolici, anche i sacerdoti diventano qui in Alto Adige propagandisti di difesa del Deutschtum. Quindi non è che nel 18 improvvisamente succede, è già un fenomeno che è cominciato, gli scontri tra la chiesa di Bressanone, se vogliamo, o la chiesa tedesca e la chiesa italiana che con Trento ha il suo, non nascono dopo il 18, sono già presenti prima. E quindi dopo avviene solamente un fatto, avviene questa incorporazione di una provincia che non viene accettata assolutamente, nella maniera più totale, poco può fare il fascismo, perché è un rifiuto totale, assoluto, molto diverso da quello della Val d'Aosta, dove sì, vabbè, qui c'è un rifiuto totale. Ecco dunque che la Chiesa diventa un elemento di cosa, e Gamper difende il gruppo, lo difende ad oltranza contro tutto e contro tutti, lo difende anche quando giudica le opzioni un suicidio per il gruppo tedesco. È vero, c'è anche, ci sarà anche la forma di diffidenza verso un nazismo che ogni anno di più diventa anticattolico, ma il nazismo è anticattolico già nel 1933, non è che quello del 38 quando arrivano a Brennero sia più anticattolico. Gamper è antinazista nel momento in cui vede che questo sciagurato accordo del giugno 39 a Berlino rischia di far saltare tutta l'identificazione tra popolo e suolo, che è la cosa. È lì che la differenza che si crea, certo. Ma non è una differenza di antinazismo, secondo me, o di cose, è una differenza perché Gamper e gli altri credono fermamente che se i sudtirolesi se ne vanno da qui e vengono sparsi per tutta l'Europa, si dalla Polonia ai Sudeti, come semi, finiranno di esistere come popolo, e quindi lui difende il suo popolo. Ecco, questo. Sì, sì, ma non è in contraddizione con quello che non sostengo, anzi è proprio, cioè voglio dire, non è che diventa antinazista perché cambia, diciamo, si è aperto gli occhi, per quello che si può giudicare dai documenti, ripeto, potrebbero esserci altre sorprese andando avanti con la ricerca in altri settori, comunque. Posso? Prego. Sì. Io sono un po' anziana, io il canonico Gamper me lo ricordo, no, sì, sicuramente io ve lo descriverei come è fatto, ero bambina, ma insomma, sono quasi tutti morti, avevo una grande parentela, sì. Allora era proprio così, mezza da una parte, italiani e tedeschi intendo, in quel momento come era qua, mezza dall'altra, avevo uno zio che era caporedattore del Dolomiten, avevo uno zio prete che col canonicus Gamper, non so. Io adesso volevo parlare più di, e questo me lo ricordo io, la psicologia che c'era contro o a favore del Gamper come rappresentante cattolico, come c'erano di quelli tedeschi che parlavano tutto contro, ma quello lì non è un prete, quello lì fa di tutto, può che fare il prete, sono tanti, e tanti erano proprio al contrario. Vox Populi, questa me la ricordo io che ero più bambina, ma la sentivo in questa grande parentela come era diffusa. Il Gamper, sì, quindi una, il figura, Gamper, una figura già controversa, sì. Allora, già all'epoca. Dalla gente del popolo dei tedeschi, perché allora quasi tutti, sì, ma infatti, si appunto dice della storia, ma l'Alto Adige allora era abitato da tedeschi, erano i tedeschi che erano stati sconfitti, erano loro che si sentivano per forza non italiani, erano stati vinti. Il popolo vinto è sempre un po', insomma, gli italiani dovevano ancora arrivare, sono arrivati in gran massa dopo. Certo. Quindi qui era quello un po', e non hanno optato in tanti per andare fuori proprio perché erano affezionati. Certamente. Ma, da questi interventi emerge un po' la questione di fondo, no? Il canonico Gamper, no, dove andava a parare, cioè qual era il suo orizzonte, no? Perché allora, come citavamo prima questa frase, l'anteposizione dei valori etnici ad ogni altra istanza, sia religiosa, sia politica e ideologica, è una frase che me lo rende attuale, voglio dire, no? Perché è una cosa che sono passati tanti anni, eccetera, ma questa anteposizione dei valori etnici ad altri tipi di valore, che poi è anche il motivo del contrasto tra Gargitter e Gamper, per esempio, questo, no? Cioè Gargitter, che ha in mente l'aspetto pastorale essenzialmente, certo, in tutte, certo, le sue scelte, e considera i rapporti tra i gruppi linguistici alla luce della sua missione, diciamo, di pastore di un'unica diocesi, no? Mentre qua sembra l'altro atteggiamento, per cui prima c'è l'appartenenza al popolo e dopo ci sono altre cose che possono essere funzionali a questo nucleo essenziale che è l'appartenenza. La mia sensazione è che in qualche modo proprio il nazionalismo, dobbiamo usare questa parola, insomma, il valore nazionale, in questo caso la difesa del carattere tedesco a oltranza, abbia il vantaggio anche su appunto il discorso della, religioso, in senso proprio cattolico, insomma il fatto di ma questo non soltanto in Gamper, devo dire che ci sono delle curiose prese di posizione anche dello stesso vescovo Geisler che lasciano un po' a pensare, insomma, questo fatto appunto di mantenere funzioni distinte, per esempio di volere a tutti i costi distanziare anziché avvicinare le due etnie, e questo sicuramente non può essere nello spirito, diciamo, di una pacificazione delle comunità nazionali, ma va senz'altro in un'altra direzione, insomma. Allora lì veramente uno dice, ma insomma, in quanto... quanto vale, insomma, a questo punto il discorso religioso o piuttosto, diciamo, quello nazionale in questa vicenda? E questo, ripeto, anche poi in un'epoca in cui avevamo un Papa, che era Pio XI, il quale poi, insomma, si batteva contro il nazionalismo esagerato. La cosa curiosa è che anche questo clero, diciamo, Gamper, poi, insomma, è l'esponente più di spicco, si rivolge continuamente alla, diciamo, alla Santa Sede, al Pontefice, eccetera, per chiedere appunto il mantenimento dell'insegnamento nella lingua materna come uno dei presidi, insomma, che la Chiesa ha dato, insomma, al clero, insomma, alla fisica. Però al tempo stesso, insomma, non lo so, è come se non si tenesse conto di quest'altra, di quest'altro aspetto del pontificato di Pio XI, che va invece nella direzione di una diminuzione in qualche modo del valore nazionale in quanto tale, quando va a scapito, diciamo, di altre nazioni. C'è anche questa difficoltà, no? Figure come Gamper, diciamo, qui in Alto Adige, rischiano comunque di fare un po' la fine di Andrea Sofer, per esempio, che nasce in un suo contesto molto particolare, che non c'entra niente con poi l'immagine che viene perpetuata e che viene strumentalizzato man mano nel corso della storia, perché comunque Gamper, al di là di questo periodo tra le due guerre, poi chiaro che rientra in gioco a parte durante la guerra, ma anche poi nell'immediato dopoguerra, non solo nell'immediato dopoguerra, nel rilancio della stampa, nella questione politica, quindi nella fondazione della Volkspartei, in determinate correnti all'interno della Volkspartei, perché anche lì poi ci saranno queste correnti brissinese, bolzanine, eccetera, liberali, cattolici, però cattolici di un certo tipo, eccetera. Quindi c'è una continuità, e anche dopo morto le sue citazioni saranno sui volantini della Notte dei Fuochi, no? Quindi sarà citato Gamper come una voce profetica, diciamo così, anche nell'ottica della richiesta di autodeterminazione, del diritto dei popoli, eccetera, anche qui quando i protagonisti della stagione delle bombe hanno questa matrice. A me dà un po' fastidio chiamarla cattolica, essendo io uno della famiglia, però ha comunque questa matrice cattolica, no? I primi Kirschbaumer, eccetera, fanno riferimento, lo fanno, diciamo così, per motivi religiosi, mettono le bombe, no? Citando Gamper, no? Quindi c'è questo filo rosso nella storia della nostra terra, che parte appunto, come diceva Ferrandi, come minimo nella seconda metà dell'Ottocento, cioè un po' con la nascita proprio dei nazionalismi, e continua tutt'oggi, perché a tutt'oggi esiste tutto questo, anche se naturalmente abbiamo fatto molti passi in altre direzioni, però secondo me un pregio di questo tipo di studi è proprio ricordarci di vedere anche la nostra storia come in qualche modo il punto di arrivo di un cammino che comincia da molto lontano, no? Perché altrimenti si prende solo... No, si racconta la storia, il fascismo in Alto Adige, come se fosse un discorso compiuto, no, non lo è, parte da molto prima e continua anche molto dopo, no? Quindi questo penso che sia. Allora, tanto per completezza, vorrei ricordare che comunque la parte, c'è una parte che precede questa narrazione storica, che è contenuta in un altro mio saggio che avevo scritto qualche anno prima e che riguardava proprio la storia, gli esordi in qualche modo della casa editrice in campo, diciamo, italiano, e la costruzione in parallelo poi di una stampa fascista come tentativo appunto di controbattere in qualche modo le tesi della stampa cattolica. Quindi, insomma, e anche lì un pochino si scoprivano queste radici che affondavano addirittura nella fine del secolo precedente. Giorgio Mezzalera. A proposito di questa storia che si tira a lungo, a me vengono in mente ad esempio dei documenti del dopoguerra dove diciamo le note dei prefetti, le relazioni di polizie ancora parlano di una Volkspartei, ad esempio, che è nata come partito democratico però pare popolata di nazisti, cosa che non è. Cioè, quindi anche le fonti documentarie ovviamente hanno bisogno di una lettura critica, e questa lettura critica dovrebbe permettere anche di capire ad esempio che attorno ad una figura come Gamper c'è una resistenza ad una oppressione. Gamper, lo ricordava Paolo Valente adesso, è una figura carismatica non solo in quegli anni, lo diventa anche, anche prima e anche dopo. Le catacombe in Ciulle, il suo messaggio di tornare nelle catacombe come i primi cristiani per rimanere ancorati alle proprie tradizioni, alla propria lingua. Di tutto questo, parte di questi riflessi arrivano anche a Roma. E sono alcuni, diciamo, sono in grado di decifrarli, però parte di questa realtà a Roma arriva molto distorta, e diciamo, quello che si mette in campo non sempre è diciamo, intelligenza politica, a volte è grande ignoranza politica. Questo lo vediamo soprattutto nell'immediato dopoguerra, ma io credo anche diciamo, durante il periodo fascista, non possiamo immaginare che le fonti informative potessero ritornare a una realtà così complessa come era quella locale. Questo per dire che è importantissimo il lavoro di ricostruzione sulle fonti. L'importante è non rimanere troppo prigionieri in questo caso delle relazioni delle fonti che di solito leggiamo, cioè va inquadrata, io credo, anche la figura di Gamper e anche questo capitolo della storia in un contesto molto più ampio, e quindi ricostruendo quello che diceva Ferrandi prima e ricostruendo anche presentando l'altro aspetto della resistenza al fascismo e all'oppressione fascista, senza il quale il nazismo, il filo nazismo non verrebbe nemmeno compreso. Andrea Sarri. Sì, buonasera. Dopo Giorgio, sì, stavo riflettendo sui vari interventi. E lei, professoressa, citava in effetti il magistero di Pio XI. È vero che c'è appunto la critica al nazionalismo esagerato. Ma non mai al nazionalismo, mi spiego? No, come giusto amore di patria, questo sì, però laddove addirittura si arriva a pensare di scindere, per dire, due etnie, di mantenerle distanti, già questa insomma risulta essere un'opzione che va al di là, penso, di quello che raccomandava in quel momento la Chiesa come... Ma il fatto è questo, secondo me la figura di Gamper come quella dei vescovi di Bressanone di Trento nel periodo degli anni 20 e 30, quindi Geisel, Rendrici, poi De Ferrari, eccetera, per certi aspetti anche lo stesso Meyer Nusser che Paolo Valente citava prima, fanno parte di un contesto culturale nel quale la cultura cattolica, che si basa su uno schema di intransigente opposizione al mondo moderno, alla modernità, e ha radici diciamo risalenti all'età della rivoluzione francese, dell'illuminismo, non arriva mai direi fino a, almeno fino al Vaticano II e al pontificato di Papa Roncalli, a iniziare a troncare alcuni legami tra cattolicesimo e nazionalismo, tra cattolicesimo e guerra. Bisogna aspettare la pace Minterri sostanzialmente per avere un primo radicale ripensamento sulla posizione chiesa-nazionalismo, chiesa-guerra. Quindi sia Gamper sia Geisler non li vedrei così del tutto fuori dal contesto della cultura cattolica, anzi sono lettori e recettori del magistero di Pio XI, il quale poi quando emana le sue encicliche lo fa appunto a partire dal 22 fino poi anche al caso dell'enciclica nascosta cosiddetta del 38, lo fa proprio secondo la logica della contrapposizione Chiesa-Mondo. Insomma, la festa di Cristo Re è fatta proprio, è proclamata da Pio XI per contrapporre il mondo cattolico al mondo moderno, e Gamper e Geisler, se andiamo a leggere quello che loro hanno scritto o gli articoli dei giornali pubblicati della tesi o le lettere pastorali dei vescovi di Bressanone, vediamo che sono comunque dentro questo insegnamento, diciamo, no, del magistero cattolico. Mi è rimasta una cosa da chiederle sul suo libro. Paolo citava la frase appunto all'inizio in cui si diceva che lei ha scritto appunto che Gamper almeno fino ad una certa data ha un ruolo non secondario nello spianare la strada alla penetrazione del nazismo in Alto Adige. Ecco, il dubbio che mi è rimasto, avendo letto il suo libro con attenzione e con interesse, è qual è questa data sostanzialmente, fino a quale data secondo lei? E praticamente nel 36, quando lei avrà letto appunto tutta questa, diciamo, queste lettere, queste varie informative che arrivano e che denunciano come ormai i nazisti avessero cambiato proprio strategie, quindi anziché rivolgersi al clero come a referenti, quindi autorizzare in qualche modo loro ad amministrare in loco i benefici, le sostanze che venivano inviate a pro dell'Alto Adige per mantenere, diciamo, la propaganda in favore irredentista in qualche modo, decidono invece di liquidare il clero e di affidarsi direttamente invece ai giovani, e quindi i giovani ritenuti a molto più intransigenti, molto più affidabili sotto questo aspetto del clero. Quindi subito dopo l'avvento del nazismo. Sì, diciamo dal 1936, quando appunto si parla in questi documenti appunto dell'emarginazione di Gamper, il quale risulta, diciamo, anche ai suoi, come dire, a chi lo osserva, piuttosto depresso, abbacchiato, proprio perché ha perso quel ruolo, diciamo, centrale che aveva avuto fino a quel momento. Da lui dipendevano appunto la rete delle scuole, eccetera, finanziata però con i soldi prima della Germania di Weimar e dell'Austria, e poi dopo e successivamente anche dal Terzo Reich, insomma. Quindi nel momento in cui viene estromesso, chiaramente si ritrova in una posizione difficile, perché non sa neppure che pesci pigliare, perché, come giustamente diceva la signora, ricordava, nella sua stessa cerchia di quelli che gli stavano vicini, alcuni non condividevano le posizioni di Gamper, il suo filo nazismo, e cercavano, anzi, come si dice appunto anche in questi documenti, di ricostituire in qualche modo l'azione cattolica togliendola all'influsso di Gamper, creandola, diciamo, su una base nuova, atteggiandola a una base secondo principi diversi. E quindi Gamper rimane in questa sorta di limbo, quindi non si capisce, e io faccio rilevare questo appunto attraverso la citazione di diversi documenti in proposito, non si capisce se la posizione di Gamper preluda ad una sua, come dire, uscita antinazista in senso proprio. Quindi Gamper ha aperto finalmente gli occhi sul nazismo, non condivide l'ideologia, non condivide più niente, si è reso conto di essere stato giocato, eccetera. Questa potrebbe essere una lettura. L'altra lettura invece è quella che lo vede, insomma, ancora in una posizione, come dire, ambigua, al limite fra l'adesione per esempio a vecchie associazioni redentiste come l'Andreas Hofer Bund. L'ultima lettera che è uscito, l'ultimo documento, è appunto viene citato, per meglio dire, in una corrispondenza fra due personaggi, e uno di questi si indirizza ad un maestro altoatesino, e dicendo: ma Gamper, adesso potrei anche trovare il passo, però non so se l'ho segnato, questo è proprio alla fine, dice: ma dia al canonico Gamper di mantenersi molto attento, insomma, perché lui sta facendo un lavoro utile, più o meno, adesso riferisco a memoria, però bisogna che stia attento, perché naturalmente bisogna essere molto vigili Ora, in questo periodo Andrea Soferbund non era un'organizzazione indipendente che ancora manteneva le stesse caratteristiche che aveva avuto prima del 1933, ma era passata anch'essa nell'orbita del nazismo. Quindi anche se Gamper a quel momento si riferiva esclusivamente all'Andrea Soferbund e non più, diciamo, a qualche organizzazione filonazista in senso proprio, anche questo deve in qualche modo far sospettare comunque un suo collegamento, se non altro come fiancheggiatore, perché l'Andrea Soferbund svolgeva questa funzione. E questa lettera che io vi citavo, insomma, è alla vigilia praticamente dell'Anschluss, quindi siamo ormai in un periodo in cui, insomma, nella stessa Austria ormai tutti quanti, insomma, tifavano, diciamo così, per l'annessione al Reich germanico, e nessuno più sosteneva appunto le fortune della restaurazione monarchica o altre cose del genere. Quindi, insomma, rimane questa figura un po' ambigua nei suoi contorni, e perlomeno allo stato attuale della documentazione che io ho letto non mi sentirei di dare una risposta in senso proprio. Rimane peraltro però, ecco, l'indicazione che dava il professor Steuer nel suo volume, il fatto che fino al 37 comunque, fino quasi alla vigilia delle opzioni, credo anzi, ci siano stati dei collegamenti fra Gamper e gli esponenti del movimento filonazista a Tesino, no? Del VKS. E questo fa ritenere che appunto i contatti, anche quando fossero semplicemente motivati da un interesse così, come dire, tattico, momentaneo, insomma, non denotano appunto che la distanza fra Gamper e questo mondo non era invalicabile. Ecco, questo voglio dire. Per cui se ci fosse stata una presa di distanza chiarissima nei confronti del nazionalsocialismo, come fecero molti, insomma, in quello stesso periodo, io ho citato altre figure, insomma, che appunto parlano di questa strana posizione dei giornali altoatesini guidati da Gamper, ebbene questi personaggi si meravigliano appunto che in quel periodo ancora Gamper cavalchi questa linea e non si sia convertito a questa visione molto più disincantata di quelli che sono gli obiettivi del nazismo, soprattutto se confrontati appunto con il discorso cristiano, cattolico, insomma, di cui questi altri esponenti si fanno portatori. Quindi io lascerei la cosa ancora così nell'ambiguità. Comunque, beh, adesso ormai l'ora è tarda, quindi direi di concludere, non so la regia cosa dice, sì, ecco, certo che di tutti questi soggetti, insomma, Gamper ormai è andato, il nazismo non c'è più, il fascismo, nemmeno tante altre cose non ci sono, chi c'è ancora è Prosper e la Tesia. E quindi va bene, buonasera a tutti.